Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. Caccia, l'ideologico quotidiano. Una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, grazie a Pierfranco Vitale per la regia, coltissima, stupenda. L'appuntamento rimane rinnovato a fra 15 giorni, perché mi dicono che per esigenze di programmazione, insomma, domenica prossima siamo liquidati. A 15 giorni. Buona giornata a tutti. Salve a tutti.